Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. L'autunno è considerato la stagione dei rincari per eccellenza e a maggior ragione quest'autunno è già da diverse settimane un osservato speciale a tutti. Gli effetti: aumenta la benzina e carburanti sono la nostra croce principale, lo sono da tempo e lo sono soprattutto da questa estate. Sono finite le campagne estive che ci hanno concesso qualche sconto, ma sono aumentati nel frattempo anche i prezzi dei generi alimentari, un rincaro del costo della vita complessivo che le associazioni dei consumatori si sono impegnate a stimare come fanno sempre, e i risultati non sono certo incoraggianti. Codacons parla di un più 550 euro su base annua di incremento per il bilancio familiare solo sulle spese alimentari. Federconsumatori e Adusbef stimano a quasi 400 euro l'aumento per gli alimenti, cui si aggiungono i 300 euro per le bollette di luce e gas e i quasi 500 per energia, carburanti, riscaldamento. E poi ci sono gli aumenti delle tasse, le rate, i conguagli dell'IMU, insomma un quadro preoccupante a 360 gradi. Allora, proprio per alzare la voce contro tutti questi aumenti, diverse associazioni dei consumatori hanno indetto una serie di iniziative e manifestazioni. Allora, ce n'è intanto una domani, mercoledì 19 settembre, una protesta che viene estesa a tutti i cittadini. Si tratta dello sciopero della spesa e tutti i consumatori sono invitati a rinunciare ad almeno una spesa, un acquisto nella giornata di domani. Persino gli stessi commercianti sono stati invitati ad abbassare simbolicamente per qualche minuto le saracinesche a mezz'asta, perché non sono loro nel mirino del Codacons e delle altre associazioni dei consumatori che domani organizzano appunto lo sciopero della spesa. Anzi, i commercianti stessi sono a loro volta coinvolti in questa tendenza a rialzo che poi devono naturalmente scaricare sulle consumatore finale. Oltre allo sciopero della spesa prevista, lo ribadisco, per domani, proprio in questi minuti invece è in corso un presidio davanti a Montecitorio organizzato da un altro gruppo di associazioni dei consumatori, sempre contro il caro vita. Tutte queste proteste sono rivolte al governo e in ogni caso chi ne subisce il contraccolpo finale è sicuramente il consumatore. Oggi noi a Salva Danaio andremo ad approfondire la posizione delle associazioni dei consumatori, dei commercianti, della grande distribuzione, perché andiamo quasi tutti al grande centro commerciale a fare la spesa, ma soprattutto chiederemo a voi cosa avete percepito facendo la spesa in queste settimane, come vi state organizzando per far quadrare il bilancio familiare. Peraltro è un mese caldissimo, ne abbiamo parlato tanto anche perché sono riprese le scuole e perché anche famiglie numerose, insomma, ha dovuto riorganizzare il bilancio anche per quello, comprare il corredo scolastico, i libri. Settembre è un mese davvero devastante. Allora, raccontateci un po' cosa ne pensate all'800240024, scriveteci al 349-238-6666. Già Danilo ci ha scritto: il problema non sono i prezzi ma gli stipendi e le pensioni troppo basse. È chiaro, Danilo ha anche ragione: se anche questi crescessero di pari passo con il caro vita, magari il peso che grava sulle spalle delle famiglie sarebbe un po' più sopportabile. Potete anche scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, potete andare ad animare anche il dibattito su Facebook, che come sempre è molto vivace. La nostra trasmissione, mettete un like, un mi piace, e all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24. Alcuni ascoltatori ci hanno scritto, come Alessandra: vediamo un po' che strategie usano gli altri per risparmiare, magari prendo spunto visto che io riesco a risparmiare pochissimo. Allora, prima di vi presento anzi tutti quanti gli ospiti, anzi ve li presenterò strada facendo man mano che li coinvolgo nel corso della trasmissione. Direi di cominciare subito con la manifestazione che è in corso proprio in questi minuti davanti a Montecitorio, davanti alla sede appunto del Parlamento italiano, e quindi ringrazio e saluto Piero Giordano, segretario nazionale di Adiconsum. Buongiorno Giordano. Buongiorno. Allora, intanto, come vi siete organizzati, in quanti siete, insomma che tipo di contestazione, sollecitazione avete portato davanti al Palazzo del Parlamento? È un bellissimo presidio con persone giovani e meno giovani, che sono poi precari e sono anche pensionati. Sono quelli più colpiti dalla crisi e che sentono maggiormente questa cura da cavallo che rischia di ammazzare il cavallo. Ecco, le accise, lo citavi prima, sono il maggiore bubbone che abbiamo in questo momento, ma non solo per chi va a fare benzina e quindi per le famiglie, ma per tutta l'intera filiera della produzione e della distribuzione. Questo è un paese che produce con i carburanti, questo è un paese che trasporta le merci e quindi anche i beni di prima necessità su gomma. Il 90% delle merci è trasportato su gomma. Non a caso l'aumento dei carburanti ha un effetto dirompente sull'inflazione e ha un effetto dirompente, ancora più dirompente, sul carrello della spesa, che ormai ha raggiunto il 5% e che vedremo purtroppo che nei prossimi mesi supererà abbondantemente questo aumento del 5%. È una lotta che portiamo davanti a Montecitorio, una lotta che tenta, e qui torniamo agli stipendi, l'ascoltatore diceva quello, e noi chiediamo anche un taglio del primo scaglione IRPEF per lavoratori dipendenti e per pensionati, che sono i soggetti più deboli in questo paese, sono quei soggetti che non arrivano non più alla quarta ma neanche alla terza settimana. Questo è un paese che, molti non lo sanno, ha 38 miliardi l'anno di crediti inesigibili e molti non sanno che l'80% di questi crediti inesigibili, cioè di crediti che non possono essere pagati dalle famiglie italiane, riguardano le utenze telefoniche e tutto ciò che ruota intorno alla casa, come il mutuo, le assicurazioni, eccetera. Questo è un paese che ha 8 milioni di cittadini che vivono al di sotto della povertà e forse anche il doppio di quelli che stanno poco sopra alla soglia di povertà. Ripeto, la cura da cavallo che era necessaria per farci uscire dal rischio Grecia, però rischia oggi di ammazzare il cavallo. Bisogna invece passare alla fase 2, che è quella degli investimenti e dello sviluppo. Giordano, noi siamo sempre molto curiosi di sapere poi come alla fine vanno queste manifestazioni. Mi chiedo, avete incontrato qualche parlamentare? C'è qualcuno che è interessato a sentire le vostre sollecitazioni e magari poi portarle dentro al palazzo per emendare magari qualche provvedimento in corso di approvazione? Non lo so, poi che risvolti concreti e pratici hanno queste vostre iniziative? Purtroppo i parlamentari sono molto, sì, passano, sono passati, hanno dato solidarietà alla nostra manifestazione, ma non nego che questo è un governo sorretto bipartisan, ed è chiaro che, voglio dire, non c'è molta sensibilità rispetto alle lotte che si stanno facendo come associazione dei consumatori. La dice lunga anche questo governo Monti, diciamo, non è molto sensibile alla concertazione con le parti sociali, solo da qualche settimana ha chiamato al tavolo per la concertazione le parti sociali classiche, che sono i sindacati e le associazioni degli imprenditori. Ecco, non c'è molta, devo dire che non c'è molta sensibilità, se non sensibilità, come dire, non voglio usare di facciata, ma di immagine. Devo dire, sì, probabilmente i politici hanno voluto, come dire, mostrare iniziative di atteggiamento di responsabilità nel momento in cui c'era da supportare il governo nelle iniziative impopolari prese per proteggerci anche da tutta la speculazione finanziaria che ci ha travolto negli ultimi mesi. Adesso sarebbe il caso appunto di passare ad altro, fare un passo avanti invece per guardare ai cittadini, alle famiglie, lì la questione è un po' più complicata. Giordano, poi la saluto, passo anche alle altre associazioni dei consumatori. C'è un ascoltatore che ci chiede, e questa è una cosa che incuriosisce molto anche noi, se Mr. Prezzi esiste ancora. Allora, questa figura so che esiste al Ministero dello Sviluppo Economico, conosco anche la persona, prima c'era Antonio Lirosi, adesso c'è il dottor Sambuco, che non so se voi incontrate periodicamente per sollecitare una maggiore attenzione su questi argomenti. Che risposte avete, che confronti avete? Ma noi l'ultima volta l'abbiamo visto circa 5 mesi fa, e quando ci siamo incontrati, diciamo, le risposte non sono state brillanti, nel senso che le nostre denunce, soprattutto eravamo nel periodo in cui i carburanti aumentavano vertiginosamente, ci ha dato ragione, però, come dire, ha preso atto, ma non posso far nulla. E il Mr. Prezzi, diciamo, che al di là della persona, non metto in discussione quello, mi sembra che abbia molto poco potere per poter incidere, come dire, su una trasformazione di quello che sta avvenendo nel paese. C'è un ascoltatore, intanto io prima, avendo commentato la prima osservazione di un ascoltatore che diceva non è un problema di aumento dei prezzi, è un problema di stipendi e pensioni troppo bassi, allora io così ho detto bisognerebbe trovare il modo per agganciare stipendi e pensioni al costo della vita, quindi dovremmo recuperare, rispolverare la vecchia scala mobile. Molti altri ascoltatori hanno cavalcato questa proposta che mi è venuta in maniera del tutto spontanea, non voleva certo essere una sollecitazione. Potrebbe essere un'idea, Giordano? No, perché io l'ho vissuta quella fase, non sono più giovane, e l'ho vissuta da sindacalista, quella è un produttore di inflazione. Noi proponiamo un'altra cosa, proponiamo il taglio degli scaglioni dell'IRPEF, almeno quelli più bassi. Se si tagliassero punti sul primo scaglione dell'IRPEF si avrebbe un effetto positivo nel liberare risorse economiche per le famiglie e quindi un effetto positivo sui consumi, sulla produzione, sull'occupazione e di nuovo sui redditi. Benissimo, grazie. E noi seguiamo il piatto mettendo la scala mobile. Grazie a Piero Giordano, grazie. Segretario generale di Adiconsum. In questo momento insieme ad un altro gruppo di associazione dei consumatori, lo ricordo, sono ADOC, ADUSBEF, Cittadinanza Attiva, Feder Consumatori e Movimento Consumatori davanti a Montecitorio, appunto, a protestare contro il caro vita per rivendicare misure per lo sviluppo, come ci ha spiegato. Ma c'è un'altra iniziativa che invece ci sarà domani, predisposta, organizzata dall'altro gruppo di associazione dei consumatori che poi vado ad indicarvi. Si tratta dello sciopero della spesa contro il caro vita, quindi per domani i consumatori sono invitati a rinunciare magari ad almeno un acquisto, che poi chiaramente faranno dopo domani, per cui è chiaro che l'iniziativa è simbolica, anche in questo caso per sollecitare il governo, le autorità preposte un po' al controllo anche dello stato di salute finanziaria delle famiglie italiane a prendere iniziative per cominciare un po' così a mostrare una maggiore attenzione sulle difficoltà che le famiglie italiane hanno ad arrivare alla fine del mese. Non si tratta solamente del carrello della spesa, qua il problema grosso è che le spese fisse stanno aumentando e c'è stato appunto un aumento di tassazione a partire dall'IMU che ha destabilizzato un po' i bilanci familiari. Saluto e ringrazio, prima di andare a sentire le altre associazioni dei consumatori coinvolte in questa iniziativa di domani, Stefano Crippa, responsabile delle relazioni esterne di Feder Distribuzione, che è l'organizzazione delle grandi insegne della grande distribuzione, quindi i grandi centri commerciali, i grandi supermercati. Crippa, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Così come saluto anche e ringrazio per essere con noi Danilo Pogliani dell'Unione Commercio, Confcommercio di Milano. Pogliani, buongiorno. A lei. Perché anche Confcommercio nei giorni scorsi ha presentato un quadro su come si sono modificati i consumi delle famiglie italiane, come si sono ribilanciati nella sostanza, e le spese per consumi sono drasticamente ridotte perché naturalmente stanno aumentando quelle per spese fisse. Crippa, io prima dicevo appunto che quella di domani è chiaramente una iniziativa simbolica e magari le famiglie domani coglieranno l'occasione proprio per frequentare un po' meno i supermercati e rinunciare a qualche acquisto in quella sede. Detto questo però, Feder Distribuzione come sta osservando la crisi e le difficoltà delle ultime settimane determinate dall'aumento dei costi dei carburanti? Come si è riflessa sull'attività dei centri commerciali questa situazione? Come a causa di questo le famiglie italiane stanno modificando il carrello della spesa che riempiono presso di voi? Sì, questa purtroppo non è una situazione che stiamo registrando soltanto dalle ultime settimane, ma è una situazione che dura ormai da qualche mese, perché effettivamente le famiglie sono in una situazione di difficoltà e noi ce ne rendiamo perfettamente conto avendo milioni di persone che entrano nei nostri punti vendita ogni giorno. È una situazione alla quale noi naturalmente cerchiamo di rispondere facendo tutto il possibile, quindi cercando di mettere in atto ogni azione per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie e quindi cerchiamo di ampliare la nostra offerta, cerchiamo di mantenere i prezzi più bassi possibili anche a fronte di aumenti dei costi che sono molto rilevanti, perché giustamente si diceva prima l'aumento dei costi del carburante incide tanto. Pensate che dal dicembre del 2009 fino ad ora sono aumentati di oltre il 40%, e quindi questo inevitabilmente va a incidere poi su tutta la filiera e anche sulle spese della distribuzione. Ma noi stiamo cercando di fare tutto il possibile offrendo ai nostri consumatori il massimo della convenienza, quindi aumentando un po' la pressione promozionale, che già è molto elevata, che è già quasi al 30%. Cercando ne poi approfittano di, molto le famiglie Crippa? Ne approfittano, sì, certamente, perché l'acquisto in promozione effettivamente è diventato un modo col quale si riesce a fare grandi risparmi. Pensate che addirittura quasi 6 miliardi si può risparmiare nell'arco di un anno acquistando prodotti in promozione, ma poi ci sono anche altre soluzioni, per esempio notiamo come le famiglie si rivolgono con sempre maggiore favore anche verso i prodotti delle insegne distributive, che sono quindi prodotti che garantiscono un'ottima qualità ma a un prezzo molto conveniente. E quindi devo dire che dal nostro punto di vista noi stiamo osservando un consumatore che si sta davvero rendendo conto della situazione e sta reagendo in maniera molto intelligente. Quindi diciamo che era una tendenza che stavamo osservando già da almeno 3 o 4 anni, ma sì, che sicuramente certamente gli ultimi tempi hanno rafforzato. $530 di sconto, è il 98% della spesa. L'11° comandamento è non pagare il prezzo pieno. Ho i buoni per queste. Dici che ci bastano le 40 scatole che abbiamo a casa? Sono pronte a tutto pur di risparmiare. Ho chiesto al direttore una lista in ordine alfabetico di tutti gli articoli venduti nel supermercato con il rispettivo scaffale. Scoprirete le loro strategie segrete per ridurre a zero uno scontrino da $1,000. Controllo ogni volta le regole sui buoni, perché potrebbero aver cambiato qualcosa. I più appassionati lo avranno riconosciuto, questo era il promo che va in onda su Real Time per presentare il format televisivo Pazzi per la spesa, e racconta un fenomeno molto diffuso in America, il couponing, la raccolta maniacale di coupon con un unico scopo, il risparmio. In ogni episodio le telecamere entrano nella vita quotidiana di alcune perfette risparmiatrici d'America, come le perfette risparmiatrici d'Italia, che sono accomunate dal motto minima spesa massima resa, ovvero l'arte del raccolto cogliere buoni sconto mettendo da parte cifre da capogiro. Chissà che non ci arriveremo anche noi a tutto questo, ma ci sono molti appassionati naturalmente di raccolta di buoni sconto che poi utilizzano al supermercato, anche quella una strategia per risparmiare e per stare più attenti. Intanto alcuni ascoltatori, stamattina parliamo del caro vita e dello sciopero previsto per domani del carrello della spesa, alcuni ascoltatori dicono: guardate, la cosa da fare è fare lo sciopero contro il caro benzina. Io lo faccio già, ci racconta Giulia su Facebook, autonomamente, evitando il più possibile l'uso dell'auto, e questa è già una buona abitudine. Ma il suggerimento che a me piace di più stamattina è quello che ci stanno dando molti ascoltatori, che ci raccontano che per creare un piccolo tesoretto personale hanno smesso di fumare, e lì sapete che io non voglio enfatizzare troppo questo aspetto, perché so che questo vizio è di difficile rinuncia per chi ce l'ha. Però i soldi che se ne vanno con le sigarette sono tanti, e quelli che potrebbero entrare rinunciando a questo vizio sono tanti lo stesso, io lo dico sempre alla mia mamma, per cui vabbè. Detto questo, andrei a sentire invece gli ascoltatori per poi coinvolgere gli altri ospiti che sono con noi questa mattina. Ci ha raggiunto Gianni Cavinato, presidente dell'ACU, Associazione Consumatori Utenti, poi vado anche a Danilo Pogliani dell'Unione Commercio di Milano. Sentirei Roberto da Napoli. Buongiorno Roberto. Buongiorno, senta, grazie innanzitutto per questa opportunità. Indicare un andazzo che si sta verificando da un po' di tempo a questa parte nel napoletano. Ah. Cioè ogni volta che si va, io non so se anche nelle altre regioni, però ogni qualvolta io vado con mia moglie a questi supermercati grossi, eccetera, con l'intento ovviamente di risparmiare, se c'è una differenza di prezzo, diciamo, a nostro favore, quando si va alla cassa dice: guardi, lì il prezzo è sbagliato, dice: vabbè, dopo devi andare al punto là, e uno va, diciamo, al punto socio oppure a un altro punto, eccetera, e invece di rimborsare i soldi, diciamo, la differenza, danno questi buoni, danno un foglio di carta, chiedono la carta d'identità e poi fanno. Cioè, a me è capitato, siamo andati dopo Caserta, devo fare 60 chilometri per andare in questo super mega. Vabbè, negozio, ma Roberto, cioè, ma quante volte le è capitato questo errore alla cassa? Tre volte. Ah, quindi praticamente un errore alla cassa. Succedono sempre queste differenze, ma perché io quello che volevo capire, ma è legale che invece di avere i soldi restituiti. Cioè, se vado in qualsiasi negozio, e certo, pago alla differenza, dici ci scusi, qua ci stanno i soldi, invece lì carte d'identità, eccetera, alla fine diciamo hanno un foglio di carta, si perde, si è costretti a riandare là, e adesso per avere, se si è perso, dovrei fare secondo loro prima l'autostrada, andare a farmi. Vuol dire, ma è normale questo? Roberto, guardi, sentiamo un po' la grande distribuzione. Allora, subito, Stefano Crippa. Vabbè, un errore ci sta una volta, tre volte già mi comincio un po' a seccare per questa abitudine. E soprattutto, per quale motivo, se ti sei sbagliato tu alla cassa, mi devi dare un buono per 5, 6, 7 euro da venire a riconsumare rifacendo tutti questi chilometri? Me la spiega questa strategia? Guardi, innanzitutto è chiaro che, come diceva lei, qualche errore può succedere perché il sistema è molto complesso e deve gestire fino a 40-50 mila articoli all'interno di un punto vendita, soprattutto quando sono questi punti vendita così grandi come quelli che accennava Roberto da Napoli. Però è chiaro che deve succedere una volta, se succede tre comincia a esserci qualche cosa che nel sistema potrebbe naturalmente non funzionare. Dopodiché io sono d'accordo, è chiaro che se c'è stato un errore nel sistema informativo del punto vendita, la cosa più semplice dovrebbe essere quella di rimborsare il consumatore. Queste sono scelte che fanno le singole aziende, nel senso che ce ne sono ci sono le aziende che di fronte a un errore di questo tipo decidono immediatamente di rimborsare il consumatore, e ci sono altre aziende che decidono invece di comportarsi in maniera simile a quella che è stata descritta a Napoli. Però insomma non è una politica che Federdistribuzione dice devono adottare tutte le insegne associate, tanto per chiarirlo anche a Roberto. Quindi in maniera assoluta noi non diamo mai indicazioni di questo genere alle nostre aziende associate, quelle sono naturalmente libertà che hanno le singole imprese. Certamente ciascuno deve fare una valutazione di quello che è il rapporto col consumatore. Quindi se Roberto questo comportamento non lo convince, deve cambiare supermercato. Allora, Confcommercio qualche giorno fa ha diffuso un rapporto dove ha spiegato che negli ultimi 20 anni la spesa delle famiglie destinata ai consumi obbligati, bollette, affitti, servizi bancari ed assicurativi, carburanti, spese sanitarie, trasporti, è aumentata di oltre il 7%, passando dal 32,3% sul totale dei consumi del 92 al 39,5% del 2011. La spesa per alimentari e bevande si è progressivamente ridimensionata in questo arco di tempo, dal 19,5% al 15%, e quindi questa è la situazione con la quale ci troviamo oggi a confrontarci. Danilo Pogliani, Unione Commercio di Milano, non gli chiedo di commentare questi dati di Confcommercio, gli chiedo di raccontarci cosa succede nel suo supermercato di prossimità, cosa succede tra lei e i suoi clienti, come ha dovuto fare per organizzarsi, per mantenere la sua clientela che magari è anche fidelizzata. Intanto ci spiega che cos'è un supermercato di prossimità? Supermercato di quartiere, diciamo. Il nostro è un supermercato medio-grande di quartiere. Però volevo essere contro i discorsi dei grandi aumenti. Sì. Perché noi purtroppo a nostro discapito gli aumenti li conteniamo e conteniamo con delle promozioni, delle offerte per far sì che il consumatore ci segua sempre. E per quanto riguarda il problema grosso è il credito, veramente il credito, perché anche il consumatore che viene qua le piacerebbe fare come una volta il famoso libretto e comprare e magari pagare a fine mese, però avere nell'opportunità anche le banche che le diano quegli spazi qua. E quindi voi non potete farlo naturalmente? Noi potremmo farlo, non c'è problema, è un giro farraginoso, però potremmo farlo, solo che veramente ci sono dei pensionati che non arrivano a fine mese, anzi vengono a chiedere magari qualche supportino da parte nostra per arrivare a fine mese. Quindi lei riscontra direttamente tutti i giorni appunto questa difficoltà, mentre per un centro commerciale grande chiaramente fa la statistica di fine mese, può fare un esame più generico della modifica dei consumi. I grandi commerciali hanno le loro carte private, le loro carte di credito, debito, cosa credito, che voi non potete fare. No, mi interessa molto questo aspetto che lei ci racconta, anche delle figure, delle persone più anziane che veramente sopravvivono a stento in certi casi, con pensioni molto risicate, che addirittura vorrebbero fare come si faceva qualche anno fa, chiedere il credito al proprio negoziante di fiducia, e in questo caso appunto invece questa situazione non la possiamo più replicare rispetto al passato. Chiedo ancora un minutino di pazienza a Pogliani, perché invece voglio andare alle altre organizzazioni dei consumatori pronte domani a appunto proporre lo sciopero della spesa organizzato già dalla scorsa estate, quindi è da tempo che si fa battage pubblicitario su questa iniziativa. Peraltro qua del Codacons l'ha lanciata, questo lo dico ai consumatori che ci stanno scrivendo, avevano contestualmente proposto anche il boicottaggio delle benzine care che salgono per speculare sulle vacanze degli italiani. Questa era stata la provocazione di Codacons. Gianni Cavinato, presidente dell'Associazione Consumatori Utenti, buongiorno. Allora domani tutti pronti a scioperare? Noi abbiamo già detto, è chiaro, voi questa iniziativa la fate quasi tutti gli anni, quest'anno però forse assume un valore diverso? Certamente sì, dal momento che ci troviamo in una situazione di emergenza. Diciamo che il cosiddetto sciopero della spesa in realtà richiede, con questo slogan che manifestiamo una richiesta precisa e dettagliata con una piattaforma appunto al governo, e alla base di questa piattaforma è proprio l'apertura di un tavolo con le organizzazioni di consumatori, visto che già formalmente siamo al Ministero dello Sviluppo Economico, ma su questi argomenti non sentono i nostri governanti. Quindi noi vogliamo proprio rappresentare una situazione che per certi aspetti è anche drammatica. Quindi non ci sono più le grandi categorie sindacali, le categorie industriali e quant'altro, o quelle del credito, le banche e quant'altro, o la finanza, ci sono anche milioni e milioni di cittadini che non ce la fanno più, e comunque i dati che abbiamo, gli indicatori che abbiamo, tutti noi lo vediamo ogni giorno anche sulle nostre spalle a livello individuale, non possono più essere nascosti, soprattutto non si può più, nascondere dietro un vetro, sostanzialmente. Mm-hmm. E noi quindi proponiamo da subito un tavolo col governo non solo per ridurre certi tipi di pesi che cadono sulla spesa alimentare, sulla spesa delle famiglie, sulle tasse, sulle accise e quant'altro attraverso i carburanti, ma proprio dei meccanismi che in qualche maniera possono agevolare le famiglie e i cittadini più in difficoltà, e praticamente far pagare a chi i soldi li ha. Insomma, noi riproponiamo ad esempio la patrimoniale, riproponiamo con forza. Non si può pensare che il problema non esiste, il divario tra ricchi e poveri, giusto per semplificare il linguaggio, aumenta, non è che diminuisce. Attenzione, non ci sono solo speculazioni davanti a noi, ci sono proprio elementi strutturali, qui si continua a premiare la rendita, e non altro. Quindi... Volevo sentire Enrico da Novara, poi vado anche all'avvocato Dona. Enrico, buongiorno. Allora, questo aumento del costo della vita, come si ripercuote nelle sue abitudini quotidiane? Cosa ci racconta la sua famiglia, Enrico? Per mia fortuna non ne risento ancora molto, perché ho una discreta pensione, però ho notato che qui a Novara ci sono diversi esercenti che stanno chiudendo. Il problema ancora di chiudere è relativo. Chi farà il servizio a domicilio a chi non è più in grado di muoversi perché è diventato anziano o cose di questo genere? Quindi non c'è anche la possibilità che ci sia un ulteriore aumento del costo dei generi di prima necessità da parte di questi utenti, che devono approfittare o usare delle persone che glielo vadano a comprare. E questo è un problema che l'ho sentito anche da altri miei amici in altre città. Quindi è un problema che bisogna avere il coraggio, le diverse associazioni lo devono affrontare. Quindi la grande distribuzione sta ammazzando tutto, e di conseguenza ci sarà da difendere le piccole cose. Enrico, grazie anche a lei. È incredibile lei, come quando lanciando un tema si aprano mille aspetti possibili di discussione. Qua siamo arrivati addirittura dal aumento del caro vita su tutto al tema della relazione fra il negozio e l'anziano, se chiudono tutti i piccoli negozi, tema del quale abbiamo parlato tante volte, e qua si riorganizzano le città e non abbiamo più appunto il supermercato di prossimità, il negozio di prossimità, che era quello di cui ci raccontava prima l'amico Pogliani di Confcommercio, a disposizione dell'anziano. Avvocato Dona, lei si è collegato da poco, ha sentito magari solo gli ultimi aspetti della nostra trasmissione, ma appunto qua da portare in piazza ci sono davvero centinaia di sollecitazioni a beneficio dei consumatori. Avvocato Dona, sì. Sono felice di una manifestazione così ampia che abbia il consenso e il sostegno di tutte praticamente le associazioni dei consumatori. Forse guardando un po' a quello che è passato rispetto all'anno scorso, noi a settembre abbiamo questo appuntamento ormai stabile da qualche anno, da quando le difficoltà delle famiglie sono davvero insostenibili. Rispetto all'anno scorso noto, raccogliendo le segnalazioni, le suggestioni dei consumatori che scrivono ai nostri sportelli, uno stato d'animo decisamente più pessimista. Era difficile il quotidiano anche un anno fa, ma forse le famiglie avevano piuttosto la sensazione di un momento che prima o poi avrebbe mollato la presa, di difficoltà che si sarebbero potute risolvere di qui a qualche mese. Ecco, ad un anno di distanza purtroppo il pessimismo nei cittadini è dilagante e questo è qualcosa che non fa bene anche ai consumi, naturalmente, che sono incisi in prima battuta dalle difficoltà economiche, ma direi anche da questo stato d'animo. Tutto ciò che i consumatori possono non comprare o il cui acquisto possono rinviare, lo fanno, lo rinviano, lo posticipano. I dati recentemente pubblicati sul calo dei consumi dei beni durevoli sono drammatici, perché in un anno abbiamo perso oltre il 10% degli acquisti e questo ovviamente innesca un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Avvocato Dona, qual è, secondo sempre il vostro osservatorio, lei prima ci raccontava come molti consumatori lo fanno ai vostri sportelli, così come lo fanno a quelli delle altre associazioni dei consumatori, qual è l'aumento, il sacrificio più frustrante dal punto di vista dei consumi che le famiglie e i consumatori che parlano con voi denunciano? Guardi, ce n'è uno molto appariscente, un altro più trascurato, ma entrambi ci danno motivo di preoccupazione. Quello più appariscente riguarda alcuni beni, in particolare l'abbigliamento, quelli che non si comprano certo tutti i giorni, ma che davano alle famiglie ad ogni cambio di stagione anche un po' di entusiasmo, un po' di pienezza, l'idea di fare un giro per fare acquisti, negli ultimi tempi sempre più durante i saldi, ma comunque era un'occasione, diciamo così, anche per tornare a dare un po' di ottimismo alle famiglie. Questa perdita di questi acquisti, soprattutto penso alle calzature, all'abbigliamento, ma anche all'arredamento delle nostre case, è sentita come una violenza nel loro quotidiano. Ma ce n'è un'altra, come dicevo, forse da loro meno percepita, che riguarda la spesa alimentare, perché la spesa alimentare ancora può essere reindirizzata verso il low cost. Non a caso, tra i tanti canali della distribuzione che sono tutti in calo, l'unico che tiene è quello dell'hard discount. Ecco, forse le famiglie ancora non si rendono pienamente conto di quanto questo impoverimento in realtà incida sulla qualità della vita. Un pacco di biscotti posso ancora permettermelo, ma non è più quello che compravo un anno fa, è un pacco di biscotti a basso costo. Viene da chiedersi se questo impoverimento nella qualità anche dei cibi che portiamo in casa non abbia poi una ricaduta sul lungo periodo sulle abitudini alimentari e, perché no, anche sulla salute degli individui, laddove, è notizia di quest'estate, anche gli operatori della filiera alimentare a volte provano a tradire la fiducia dei consumatori, come fu per la bufala fatta con il latte in polvere. Grazie Avvocato Dona. Allora, io qua sto già quasi chiudendo, difficilmente riesco a dare la parola per una parola di conclusione a tutti i miei ospiti di questa mattina, però magari crippa su questa tendenza ultima segnalata dall'Avvocato Dona. Federdistribuzione vuol dire qualcosa? Guardi, dal punto di vista della spesa alimentare certamente ci sono delle vie d'uscita per superare gli aumenti che ci sono. Non necessariamente io credo ci sia da fare una rinuncia alla qualità, perché come dicevamo prima ci sono delle soluzioni che possono cercare di andare incontro alle esigenze della spesa mantenendo la qualità. Abbiamo parlato prima dei prodotti a marchio dell'insegna, ma lo stesso utilizzo delle promozioni, per esempio una organizzazione più attenta della spesa, quindi prendendo necessariamente quello di cui effettivamente si ha bisogno. Questo è un atteggiamento razionale che noi stiamo notando nei nostri consumatori e che sta diventando sempre più importante, quindi mettendo in atto una serie di attività che danno un senso più rigoroso nel fare la spesa, anche nei beni alimentari io credo si riesca ad avere dei risparmi senza necessariamente rinunciare al discorso qualitativo. E intanto molti ascoltatori, Crippa glielo dico, contestano i prezzi praticati dalla grande distribuzione, sono tutti convinti che potreste fare uno sforzo ancora ulteriore per abbassare i prezzi a beneficio dei consumatori. Torneremo ad invitarvi magari a raccontare come si formano i prezzi finali per capire se effettivamente ci sono ancora margini ulteriori di restringimento. Intanto domani tutti pronti allo sciopero della spesa, perché no, facciamo tanto si tratta di un acquisto rinviato, non una rinuncia, lo sappiamo bene, ma magari una piccola dimostrazione la possiamo dare tutti. Grazie a Gianni Cavvinato, Stefano Crippa, Danilo Pogliani, Massimiliano Dona, a tutti gli altri ospiti. Complimenti a Marco Lombardo che da oggi ha avuto il rinnovo del contratto. Il mio assistente non mi lascia per altri 2 anni. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.